Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 7 minuti, buona domenica, da Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero, rotocalco domenicale di Radio 24. E per iniziare io vi ricordo subito il gioco, più tardi intorno alle 11.40, Modigliani in 24 minuti, per voi la possibilità di portare a casa i biglietti per la mostra Modigliani Soutine e gli artisti maledetti a Milano e il bellissimo catalogo della mostra, ammesso che riusciate a fare una cosa, ovvero ad associare un titolo di un quadro a questa canzone. Periferia, dove vivere un terno alla lotteria. È un quadro di Maurice Utrillot, Chiesa. In qualche modo ho detto quasi il titolo del quadro, ovviamente, dovete indovinarlo voi. Comunque ci eravamo quasi arrivati la settimana scorsa e riuscirete ormai a rispondere per forza. Già vedo i telefoni che squillano, anche perché potete farlo da questo momento. 800 24 00 24, dovete dare il titolo del quadro, più o meno quello che ho detto io con qualcosa in più. Non vi aiuterò più tardi, vi ho già aiutato abbastanza. 18 minuti, parliamo dell'argomento invece di oggi, del riposo del guerriero, che è retrovisione. Oggi cercheremo con uno specchietto così immaginario di vedere le nostre spalle, ovvero di vedere tutti quegli oggetti e anche i personaggi che sono entrati nel nostro cuore e hanno caratterizzato la nostra vita, oggetti dei quali non abbiamo potuto fare a meno per tanti anni e ancora oggi magari fanno parte della nostra vita, senza magari, e oggetti che rappresentano noi italiani, più che altro nati in Italia, ma non soltanto, e anche personaggi, non soltanto oggetti. Tra le altre cose, alla fine di questo mese pare ricominci Carosello su Rai 1, che ha accompagnato moltissimi bambini, non soltanto per tanti anni. Si diceva vai a vedere Carosello e dopo si va a dormire, insomma, quello ha segnato proprio anche l'orario della buonanotte di moltissimi bambini. Di questo parliamo anche con il vostro contributo, per capire da parte vostra quali siano questi oggetti, quelli che sono rimasti nel vostro cuore, che magari ancora oggi usate o avete lì da qualche parte sullo scaffale. Il numero per i vostri messaggi 349-238-6666, tra poco anche il nostro ospite in studio, ma prima, parlando di oggetti del passato che sono presenti però in noi, mi è venuta in mente questa canzone, perché forse è vero che il passato ha il suo fascino, ma comunque, come diceva Oscar Wilde, il fascino del passato è che è passato. Non può essere mai come ieri, mai più la stessa storia. Non può essere mai come ieri, mai quella stessa gloria. Mario Venuti, Carmen Consoli, mai come ieri, perché le cose, insomma, del passato hanno il loro fascino, però poi, insomma, finiscono. Luca Pollini, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, giornalista, scrittore, autore di un blog, anzi l'abbiamo ricordato anche la settimana scorsa, è retrovisore.net. Tu hai un retrovisore fisso nella tua vita e continui a guardare le cose del passato che però fanno parte della nostra vita. Certo, sì. Sono tante. Sì. Io diciamo che penso che la storia venga fatta anche proprio da eventi, ma non eventi storici, mondiali o personaggi, anche piccoli oggetti, piccole cose che sono passate alla storia e che hanno segnato in maniera indelebile, secondo me, tante persone. Cioè, anche perché gli oggetti, ci sono degli oggetti che ci accomunano e quindi ci fanno sentire parte di una società o parte di un gruppo, diciamo così. Esatto, esatto, è proprio così. Cioè ci sono delle cose che magari uno non ci fa caso, non ci pensa, però degli oggetti trasversali, ti faccio un esempio, così almeno entriamo sì, subito. Esatto. Nella cosa. E pensiamo agli anni 50. Nel 1952 a Milano, in Piazza San Babila, è stata messa la prima cabina del telefono. Ora, io voglio sapere chi di chi ci ascolta non è mai... ovviamente di una certa età, non è mai entrato in una cabina del telefono. Beh, su una certa età neanche poi così neanche certa così età, sì, no, perché dire, poi ci sono ancora perché sai che, non, che ormai non qualcuna resiste più. No, ancora, per ecco. Legge devono, sì sì devono essere installate negli ospedali, cioè chiamiamoli telefoni pubblici più sì. che le cabine del telefono sì. Però le cabine del telefono hanno ascoltato storie d'amore perché si andava siccome si telefonava alla fidanzata e non si voleva essere sentiti dai genitori, allora uno scendeva in strada, andava all'angolo del marciapiede col se la fidanzata era fuori Milano o comunque fuori dalla zona con il sacchetto di gettoni, una tasca ecco, piena di gettoni ovvio, esattamente sì. E quindi questo è, diciamo che questo è un oggetto che beh, ma addirittura il gettone telefonico non mi ricordo più quanto valesse, forse 50 lire. Ecco, mi ricordo 50 invece lire. E si dava anche come resto, le do un gettone va sì. bene ok ogni tanto si usavano della truffa dei resti poi si parlerà più avanti, ne parleremo più avanti perché c'è un capitoletto, ma dei mini assegni esatto stavo vabbè, giusto allora, arrivando siamo, lì siamo a posto allora, stavo vabbè. Giusto arrivando lì dei mini assegni che dal 74-76 hanno spopolato in Italia perché ovviamente non c'erano più monete, davano la colpa ai jukebox, davano la colpa ai flipper, davano la colpa a tutto, sta di fatto che mancavano e tu andavi a fare la spesa e mi ricordo mia madre arrivava con caramelle, gomme, gettoni, quando andava bene ti dava il gettone. Ma sai che sto ragionando sul fatto che ho talmente in testa io quella cosa del mancanza di moneta che anche oggi quando ti danno la moneta di resto ti sembra una roba impossibile, ti sembra di aver svuotato il cassetto del negozio, invece ormai i negozi no, sono pieni esatto. di moneta, ma, per cui te la danno anche quando volentieri. Andavi, quando andavi all'estero, andavi in Francia, che avevano i franchi, piuttosto che cioè, i franchi, i marchi tedeschi ti davano la moneta, per noi la moneta era veramente una rarità e non si sapeva più come, i commercianti non sapevano più come dare il resto e allora ti davano le cicche, ti davano sì, le cose, fino vero. A quando... Nel 74 arrivò questa banca popolare di Torino che fece questo assegno, che era vera. Tenete presente che nel 76 si calcolarono 2 miliardi di assegni, fra cui anche falsi, ovviamente perché uno si inventava una banca, e arrivavano assegni da 350 lire. Ecco, erano i fantastici mini assegni, che si davano al posto della moneta. Che hanno fatto anche il collezionismo. Ah, beh, certo, è vero, qualcuno ci sarà sicuramente. Certo. Io non ne ho più neanche mezzo. Ho le schede telefoniche, però. Ecco, vedi. Le 10-16 minuti, gli aggiornamenti sul traffico, continuiamo a parlare appunto di oggetti, avete capito, che hanno rappresentato la nostra storia e alcuni lo fanno tuttora. Il riposo del guerriero. Adesso fate un giro per la vostra casa. Andate a cercare se avete qualche oggetto in Moplen. Il Moplen. Moplen è un altro di quegli oggetti che, beh, innanzitutto che è passato la storia perché l'inventore Giulio Natta vinse il Nobel sì. mica roba da poco. Comunque nel 54 diciamo che è il nuovo prodotto che segna l'Italia in movimento, no? Cioè, erano gli anni della ricostruzione, quindi erano subito nel dopoguerra. Primi metà degli anni 50 l'Italia è in movimento e si inventa questo prodotto che subito si pensa è moderno. È moderno ma perché? Perché è leggero, perché è resistente e perché è colorato. E col Moplen si fa di tutto, veramente, dai componenti delle macchine, delle automobili, alle stoviglie, alle bacinelli, i giocattoli, qualsiasi cosa. Ed era un oggetto divertente, così divertente che giustamente secondo me l'azienda chiamò come testimonial per promuoverlo un comico, Gino Bramieri, che ha legato indelebilmente anche al di là della sua splendida carriera, però tutti si ricordano Moplen, che era il codino del carosello che andava in onda all'epoca, no? E quindi diciamo che Moplen è una sorta di biglietto da visita dell'Italia all'avanguardia. Ecco, di quell'Italia lì in particolare, però anche adesso poi ci sono ancora oggetti che poi noi diciamo in plastica in generale. No? Allora, l'anno scorso sono stati fatti 61 milioni di oggetti nel mondo, ancora, ovviamente, 61 milioni di oggetti in Moplen. Quindi Moplen resiste, vive e vegeto benissimo. Chi invece ahimè è morto è stata l'azienda che l'ha inventato, che è la Montecatini Edison. Vabbè, quello purtroppo è un'altra faccenda. Marta Cagnola, ciao, buongiorno. Mi verrebbe da salutarvi con un emo Moplen. Dovresti, certo. Quanti oggetti in Moplen hai in casa? Ne avrai una valanga. Ecco, ne avrò una valanga, ma in particolare conservo sì. un orrido catino per il bucato. Il catino per il bucato tutti ce l'hanno. Tutti. Ecco, esatto. Di tua nonna. Decorato con delle rose rosse, è veramente bruttissimo. Indistruttibile. Beh, indistruttibile, poi ho l'illusione di saper lavare bene come faceva mia nonna. Eh sì. Perché quello. Ci vuole anche sapore di Marsiglia e sei a posto a questo punto. Ebbene sì, abbiamo tutto. Allora, noi dedicheremo poi una puntata, la puntata di Pasqua, la dedicheremo proprio al Carosello, perché su Carosello si possono dire e si devono raccontare tantissime situazioni, vicende, curiosità, la storia, perché Carosello ha fatto veramente la storia dell'Italia per molti anni e quindi dedicheremo una puntata proprio a questo. Tra l'altro dovrebbe ritornare proprio alla fine del mese anche su Rai 1, per cui una rivisitazione, immagino, perché non si sa molto del nuovo Carosello. Però cominciamo ad accennare, visto che oggi parliamo di oggetti, di eventi e di personaggi che in qualche modo sono entrati nel cuore e hanno cambiato il nostro modo di vivere, cominciamo ad accennare al Carosello, anche perché Marta, anche tu sei una di quelle che finito Carosello andava a dormire. Beh, devo dirti che purtroppo l'ho incrociato per poco tempo nella mia vita, perché sono nata un po' tardi, quindi insomma sono nata alla fine del 73, Carosello è un anno solo, del 77. Quindi veramente molto poco. Però vabbè, io essendo stata una bambina un po' particolare, poi sono diventata normale crescendo, io ho imparato a leggere con Carosello, riconoscendo i nomi delle marche, dai marchi in televisione ai nomi delle marche sui prodotti. Avevo poco più di 2 anni, quindi ecco, ero una bambina un po' strana, però questa mania per il Carosello mi è rimasta proprio perché secondo me, adesso sì, io non voglio arrivare all'eccesso di Jean-Luc Godard, che diceva che era il prodotto migliore del cinema italiano, però ha segnato l'immaginario di un'epoca, ha segnato tanta storia del cinema e della televisione, e questo ritorno secondo me è davvero curioso. Io non sono molto ottimista, perché un ritorno in tempi di crisi è difficile, perché la pubblicità non si fa con l'immediatezza, la spensieratezza e la mancanza di mezzi di allora, però certo è che insomma è un tentativo importante. Lo stiamo aspettando, dicevano metà marzo, poi hanno detto fine marzo, sì, hai ragione, se ne sa molto poco. Si chiamerà Carosello Reloaded, pare, quindi con questa spolverata di modernità, sigle riadattate. Speriamo che oltretutto ci siano gli stessi registi, attori, perché il Carosello, il vero Carosello originale, era, tutti gli spot erano girati da signori registi. E scritti anche da grandi autori. E scritti da grandi autori, interpretati da grandi attori, cioè Gino Bramieri è un esempio, sì, ecco, io vorrei vedere Claudio Bisi. Gino Cervi. Cioè, esatto. Cioè. E non lo so, beh, ci saranno quelli di oggi, no? I grandi attori di oggi ci saranno, speriamo, credo, non lo so. Tu come te lo immagini, Marta, il Carosello di adesso? Guarda, io ho paura che insomma si cerchi di puntare sui grandi nomi per fare grandi spot colossal, come è successo, e avendo pochi soldi insomma i grandi spot colossal saranno difficili da realizzare. La cosa bella di Carosello era che era assolutamente rapido, immediato, la realizzazione era immediata, e Luciano Emmer, che è stato il grande regista, purtroppo scomparso qualche tempo fa, che aveva addirittura creato la sigla, sigla nata in una notte, ci aveva raccontato proprio la Radio 24. Recupererò nelle prossime settimane quell'intervista, sì, bellissima. Che dopo la proporremo anche nella puntata dedicata al Carosello. Un'intervista per me particolarmente emozionante fu, lui raccontò che la sigla venne creata la notte prima perché se l'erano dimenticata. E quindi lui si inventò, ve la ricordate, di sigle ce ne sono state tante, sì, ve la ricordate, beh, la prima sigla, che era quella con le tende che s'aprivano, cioè, sì, lui si era inventato proprio un carrello che veniva trascinato, e addirittura ci si ricorda di chi dipinse le tende, di chi le stirò, insomma tutto fatto all'impronta. Lo stesso Luciano Emmer celebrava Carosello da, insomma, ricordiamoci, erano tempi un po' diversi, e si diceva che Carosello era molto più rapido della televisione e del cinema, ma si riferiva anche al fatto che fosse molto rapido a pagare. Insomma, in quei tempi non giravano i soldi di adesso d'abitudine, stiamo parlando del 57, quindi insomma era particolarmente interessante questo aspetto. Grandi registi come Luciano Emmer addirittura si convertirono, poi non si sa quanto il cinema smise di chiamarli e quanto invece loro scelsero la televisione. Ecco, non, insomma, sì, Io spero in una freschezza, in un'inventiva e anche una sperimentazione, insomma, schegge di follia come quelle del carosello di allora. Comunque è bello che tu abbia così imparato a scrivere, a leggere con il carosello, che in realtà non hai vissuto, ecco, l'hai vissuto semplicemente perché si raccontava, se ne parlava. Sempre che, no, guarda, proprio vivendolo, perché io avevo poco più di 2 anni, sì. Quindi 75-76, e mi raccontavano sempre che la prima parola che ho letto è stata fine. Sì. E la seconda non ve la dico perché è una marca molto molto piccola, e riconobbi il marchio nello stabilimento vicino a casa mia, io abito in Brianza, e dissi lì c'è scritto la tal marca, e io avevo imparato a leggere associando le marche alle scritte, insomma i logo praticamente. Vabbè, un po' come il gioco che c'è adesso su... adesso figurati, ci sono anche giochi sugli smartphone, dal logo devi riuscire a indovinare la marca, per cui vedi che alla fine tu appunto tutto ritorna. Grazie Marta Cagnola, poi ci aggiorniamo per la puntata dedicata proprio al fenomeno. Un abbraccio. Ciao. Luca, quindi appunto carosello con tantissimi prodotti. Carino quello che dice Marta, che lei ha imparato a leggere. Sì. In quegli anni, subito dopo, diciamo, iniziamo a entrare negli anni 60, ci fu una delle trasmissioni più in voga, che abbia più successo, Non è mai troppo tardi, condotta dal maestro Manzi, che venne scritta e realizzata apposta per combattere l'analfabetismo, sì, in Italia. Per imparare a leggere a scrivere. E voi immaginate che 35.000 telespettatori impararono a leggere e scrivere grazie alla televisione. Proprio come adesso. Esatto, cioè quindi l'ante di servizio pubblico all'epoca era servizio proprio. Allora, la casa orologio con l'omino e la donnina che escono a seconda del meteo, te la ricordi tu? Questa... La casa orologio, no. Sì, che aveva, a seconda delle sue, del tempo, brutto o bello, usciva la donnina o l'omino, uscivano. Vedi? Ti sei dimenticato quell'oggetto, esatto. Devi andare assolutamente a recuperare. Ognuno... Grazie ai nostri ascoltatori, certo. Vedi che emergono delle cose. Non so quanto ci abbia, non so quanto così abbia fatto parte della nostra vita, però sicuramente per qualcuno l'immaginario, certo, l'ha stimolato. Assolutamente. Come del resto le statuine... In colorate di quel colorante, non so cosa sia, non lo che so, cambia colore, sì, esatto. Che però le trovi ancora, quelle lì sono in qualunque forma, esatto. Dalla Torre di Pisa, Torre di Milano, esistono, quelle esistono nel tempo. C'è la pubblicità adesso, tanto per stare in tema, e poi torniamo a parlare di oggetti e persone che hanno caratterizzato la nostra vita e che comunque ci portiamo ancora nel cuore e anche nella nostra quotidianità. Il riposo del guerriero. Io mi ricordo perfettamente, come anche molti ascoltatori, e Marta Cagnola soprattutto, si ricorda gli LP e i 45 giri rigorosamente in vinile, si ascoltavano una volta sola, perché quella era la volta in cui si registravano sulla cassetta, perché poi il disco veniva messo via e... mai più toccato. E non si prestavano. Ah no, perché si sarebbero rigati. Esatto, chissà in che mani li mettevano. La copertina la studiavi? La copertina si studiava, la copertina era tutto, e il retro di copertina anche, perché così scoprivi quali fossero i componenti di una band, chi suonava in quel disco, anche senza essere una chi band. Chi realizzava la copertina, chi... Esatto, invece oggi con l'MP3... Quando l'è stato inciso, dove, come... Se sai chi... già il titolo, se il titolo è già qualcosa. Esatto. Senti, per quanto riguarda la musica, cosa è rimasto nei nostri cuori? Tu che hai scritto anche tanto a parte aver pubblicato anche un dizionario. Anche la musica, come gli oggetti, segnano, anzi è ancora più facile, diciamo, no? Perché evocano, ma non solo ricordi personali, perché poi uno ha la sua canzone ed è un conto. Poi c'erano i jukebox. Esatto, volta. Però ci sono delle canzoni che hanno fatto e segnano indelebilmente veramente l'epoca. Cioè, faccio un esempio più banale, è nel blu dipinto di blu di Modugno. Sì. Cioè, nel senso, il blu dipinto di Modugno è stato ma anche un po' lui come l'aveva rappresentata, cioè per la prima volta allargando le braccia invece di portarle al cuore, quindi fu già una cosa, un cantante moderno che al volare allargava le braccia, invece solitamente all'epoca si portava le mani al cuore. Quella... E ho visto Un re, secondo me, di Enzo Iannacci, è stata anche ricordiamo quando l'ha scritta, cioè l'ha scritta nel 67-68, erano anni abbastanza difficili ed era una canzone di protesta a modo suo, per guardare all'estero, Je t'aime non plus, chi è che non può dire che Je t'aime non plus è stata una canzone rivoluzionaria? E, oppure eventi tipo nel 65 i Beatles arrivano per la prima e unica volta in Italia e al Vigorelli, 1.000 lire il prezzo d'ingresso, 2.000 lire se volevi andare sotto il palco, Peppino Di Capri ad aprire il concerto, questa è una chicca che molti, a molti verranno i capelli ricci, eppure è così. Subito dopo di lui, fortunatamente, i New Dada con Maurizio Arcieri, all'epoca non punk, e fecero questo concerto di pomeriggio, sì, perché per l'ordine pubblico di pomeriggio, poi venne, talmente fu tanta la gente, quindi venne replicato anche la sera, all'inizio alle 7:30, 8 di sera, quindi... E signori, chi ha avuto la fortuna di assistere al concerto dei Beatles in Italia nel 65? Sì, magari anche all'ultimo minuto, visto che avendo replicato il concerto, mi dice: vabbè, senti, siccome ne fanno un altro, arrivarono in treno alla stazione centrale di Milano, perché era un concerto da Lione. Arrivavano la sera prima alla stazione centrale, 4 Alfa Romeo Duetto Spider a prenderli, ognuno sulla propria macchina, seduto ovviamente da divo fuori, diciamo nel sedili dietro, però col sedere sul braccioli, a salutare la gente, le portarono all'Hotel Duomo. Il concerto dei Beatles, secondo me, io non ho avuto ovviamente la fortuna di vederlo, però sono cose che hanno segnato comunque in epoca, e soprattutto il pubblico che l'ha assistito, cioè non puoi dimenticare una cosa così. Beh, certo, anche perché è stato un evento da tantissimi punti di vista. Sì, viaggiare. È vero che i Dick con Si viaggiare non c'entrano, a parte Lucio Battisti, però ho scelto questa canzone perché il vostro è stato anche un viaggio nella musica e anche nell'amicizia, immagino. Pietruccio Montalbetti, ciao, buona domenica. Ciao, ciao, ma che onore per me, io sono un grande ascoltatore di Radio 24, quindi per me è un grande onore. Ma lo è allora, per noi, Pietruccio. Tu, la serata dei Beatles, io sì. Ero in prima fila. Avevi speso 2.000 lire oppure... è andato gratis. No, 2.000 lire. Eccolo. Quando sono usciti al centro, hanno iniziato con She Loves You, hanno fatto She Loves You, c'è stato un urlo pazzesco e da quel momento in poi non si è sentito più niente. Ecco perché non c'è. Si è solo visto, la gente urlava e l'impianto era un impianto enorme, però di seconda mano, non so che cosa. Pietruccio, scusami Pietruccio, sono Luca. Sì. Ma dimmi di Peppino Di Capri. No, io Peppino Di Capri non me lo ricordo. Ah, non te lo ricordo. È andato alla sera, nel pomeriggio, ci sono stati i New Dada di Maurizio. Peppino Di Capri non c'era nel pomeriggio. Ok. Perché almeno io non l'ho mica visto. Ah, no, sarà successo così, allora. Quando hanno deciso di fare il secondo concerto, hanno scelto un'altra apertura, tutto qua. Esatto, perché io mi ricordo i New Dada, che sono usciti perché c'era Leo Vester, che era il loro manager, che ha portato poi anche i Beatles. Sono usciti, è stata un'immagine magnifica. No, io penso che nella storia, sai che nella storia c'è sempre un prima e dopo, sì. Prima di Cristo, dopo Cristo, prima della rivoluzione francese, dopo la rivoluzione francese. Per quanto riguarda la musica pop, c'è prima e dopo i Beatles, non ci sono proprio storie. E per quanto riguarda la musica italiana, dal mio punto di vista, se è condivisibile, c'è prima e dopo Battisti. E io sono d'accordo con te anch'io, pienamente. Per la verità. Allora, intanto ricordo il libro, si intitola Io e Lucio Battisti, edito da Salani, e Pietruccio appunto è chitarrista dei Dick Dick, quindi avete cantato anche canzoni scritte da Lucio Battisti. E Pietruccio, cos'è rimasto secondo te nel cuore di chi Battisti invece non l'ha vissuto, nel senso che l'ha ascoltato, ma dopo... Quindi ma oggi, cuore, cos'è che riesce a toccare ancora, secondo te? Ma innanzitutto la sua musica, lui era un fautore di diceva bisogna fare pochi accordi perché tutti possono suonare, ma delle grandi melodie. Battisti è, non voglio dire una sciocchezza, ma è come se fosse Mozart, è veramente uno che ha rivoluzionato. Difatti nel libro Io e Lucio Battisti c'è una bellissima prefazione di Renzo Arvore che dice che Battisti è stato un rivoluzionario, ha rivoluzionato i meccanismi anche armonici. Lui e Mogol hanno inserito un nuovo linguaggio che era quello delle immagini. Se io penso, non so, a una delle canzoni che io amo molto, che ha scritto per noi, Vendo casa. Questo Vendo casa descrive il tormento di un uomo abbandonato, ma non con le solite parole tipo «Ah, l'amore mio mi ha lasciato, come soffro», no, lo descrive attraverso il degrado della casa, quando dice «L'erba è alta, ormai lo so, e dovrei potare il melo», già hai un'immagine di una casa, un po', poi quando nella seconda parte dice «La poltrona a fiori è vecchia oramai, quello strappo è da cucire», cioè c'è veramente una genialità. Di molti cantanti si dimenticheranno, ma di Battisti si ricorderanno molto. Ecco, quindi nasce l'idea di raccontare delle storie in una canzone, che sono delle storie che raccontano delle emozioni, ma viste attraverso, per esempio, gli oggetti, le cose che succedono. Sì. Io ho una frase che ho sempre in testa, che secondo me è straordinaria, di Mogol ovviamente, che dice «Ho un anno di più e qualcosa in meno tu», come per dire che, siccome una persona invecchia, in qualche modo, no, la persona che ti accompagna ha qualcosa in meno, ed è un'immagine straordinaria, perché è tutto un po' ribaltato in questo senso. Ma guarda, io in questo libro però in questo libro ci sono dei racconti che nessuno ha mai detto. Ho deciso dopo tanti anni di raccontare chi era Lucio Battisti prima del mito, cioè chi era umanamente, perché tutti dicono, hanno tutti scritto chi era il grande Lucio Battisti, ma io ho avuto l'opportunità di conoscerlo prima che conoscesse Mogol, e quando mi chiamava Abedru, ascolta le mie canzoni, e devo dire che erano delle ciofeche le sue canzoni, però mi diceva, erano veramente orribili, cioè io che cominciavo a sentire i Beatles, Rolling Stone, mi diceva come ti sembra? Buone, tra me e me dicevo, ma poveraccio, questo qua andrà sotto i ponti perché non ha speranza. Ma lui però aveva un magnetismo. Io mi sono, diciamo, tra virgolette, innamorato della persona, avulsa dal fatto delle canzoni, perché le canzoni io non pensavo mai che diventasse un personaggio. Certo. È la persona che ti ha conquistato. E mi quindi... ha conquistato, e difatti nel Natale del 64, da poveraccio, gli ho detto, ma cosa fai a Milano? Suonavo in un'orchestra, gli ho detto, ma ciao, vieni, ho fatto conoscere mia mamma, voi parlavate di copertine, mio fratello Cesare Monti, che gli ha fatto tutte le copertine, sì. Perché prima le copertine erano praticamente, cosa facciamo di copertina? Quasi. Invece mio fratello, che aveva lavorato alla Rolling Stone, ha detto che le copertine erano lo specchio o allegorico o descrittivo di quello che c'era dentro. Infatti le copertine di Battisti sono dei capolavori, non perché sono fatti da mio fratello, perché Battisti aveva le idee chiare quando ha incontrato Mogol. Ogni tanto c'è qualcuno che dice che si arroga il fatto di averlo, scoperto. Battisti deve tutto a questa Christine Leroux, che era una francese, la sua editrice, che ha creduto in lui nonostante le canzoni fossero mediocri. Poi a se stesso, ma molto a se stesso, e poi innanzitutto a Mogol, che nonostante il suo carattere un po' strano, discutibile, ha trovato la combinazione per aprire una cassaforte, e quando ha aperto questa cassaforte ne è uscito veramente quello che ne è uscito. È un po', diciamo, a me e alla mia famiglia, che l'abbiamo sostenuto in una città persa, dove poi tra l'altro mia madre gli voleva molto bene, le mamme si telefonavano, ma come stanno i nostri bambini? Cioè, in questo libro ci sono delle storie che fanno che, cioè, ho fatto fatica a raccontarle perché mi commuovevo io nel ricordo di questa nostra gioventù e di questa nostra lotta che abbiamo fatto, ma senza fare dei feriti né dei morti, lotta per riuscire a dare un senso. Certo, è arrivata, è normale, no? Quando poi appunto una persona vuole portare avanti quello che è il suo sogno, in questo caso il vostro, e poi si lotta per ottenerlo. E poi se c'è il cuore, poi da lì sì, se c'è l'anima, poi a quanto pare le cose emergono. Luca voleva farti una domanda. Scusa, sì, l'eredità di Battisti, chi è che l'eredità artistica di Battisti, chi è che nessuno. A nessuno ancora. Secondo me nessuno. Ecco. Nessuno. Guarda, il panorama italiano è di una mediocrità, a parte, non so, Vasco Rossi, che ha un suo pubblico, ed è, a me non dispiace. Ma siamo lontani dai livelli di... Sì, Zucchero, che l'ultima volta che mi ha visto a Oscià mi ha abbracciato, mi ha detto, ti devo dire una cosa, mi ha abbracciato e mi ha detto, sai, io avrei voluto tanto conoscere Battisti e voglio ringraziarti, ho detto, ma chissà perché mi deve ringraziare, ti voglio ringraziare perché tu, so che sei stato l'unica persona che gli è stata vicina nei momenti, lui era viveva in un monolocale con, non so, 50.000 lire al mese, perché aveva lasciato l'orchestra nell'indigenza, ma nella sua semplicità, non è mai stato un consumista. Io quando, voi vi immaginate, non so, la casa di Lucio Battisti, quando poi è diventato famoso, la casa della rockstar. Lui era uno molto semplice nella vita, ma complesso nella musica. Non era un consumista, non era quello che è stato detto avaro, perché tra l'avarizia e la parsimonia c'è molta, è molto vicino. Lui era parsimonioso, anche perché come me avevamo la stessa estrazione sociale, avevamo delle cose in comune, la stessa estrazione sociale, la stessa cultura. Avevamo due padri, tutti e due mutilati di una gamba, e le due madri che si conoscevano, che si sono, c'è un aneddoto dentro nell'ambito del libro molto divertente dell'incontro delle due mamme che ci chiamavano i nostri bambini, che fa sorridere. Le due mamme erano molto simili, eravamo i figli prediletti, quindi c'era una cosa che ci accomunava, e poi ci accomunava, diciamo, la curiosità, la voglia di capire, meglio le cose, e quindi abbiamo fatto delle vacanze insieme, delle gite. Io poi, essendo un grande viaggiatore solitario, ho scalato montagne ultimamente, la Aconcagua, ho girato il mondo in solitario, quando tornavo dai miei viaggi, dato che lui non voleva che io andassi a casa sua e gli raccontassi i viaggi nei minimi particolari, perché era una persona molto intelligente e molto curiosa. Vabbè, poi anche un modo per conoscere le cose che non si possono vedere. Certo, scusa, replico certo. Un messaggio che dice: ma cosa state dicendo? Battisti scriveva la musica, le parole sono di Mogol, lo sappiamo benissimo, nessuno ha mai detto il contrario, per cui non so perché di questo messaggio. Pietruccio Montalbetti, io ti ringrazio molto e poi insomma invito a leggere, per chi volesse conoscere la vostra storia e conoscere un Lucio Battisti vero. Io Lucio Battisti, appunto, da poco pubblicato, poi avrò un modo anche di sentirci in altre occasioni e rivederci. Grazie ancora, Pietruccio. Buona domenica. Dimmi. Complimenti per la vostra trasmissione e grazie di tutto. Ciao. Grazie a te, ciao. Insomma, un po' di cuore. Tu quanti dischi hai, Battisti? Io ce l'ho tutti anch'io. Tutti, semplicemente tutti. Ce l'ho in vinile e ricomprati anche in CD. Tutti. E anche siamo messi uguali. Poi nel lettore. Esatto, così, non, così. Cioè, ci sono per forza. Sempre. Il riposo del guerriero. Allora, ci fanno notare che i Beatles sono stati anche a Genova, se non mi sbaglio. E poi basta, però dice impianto, suonarono qualche giorno dopo anche a Genova al Palasport, acustica pessima, manca a Milano, quanto pare era così. E poi il gettone valeva 200 lire, Sandro ha 200 lire, dopo valeva 50 lire, poi 100, 200, per l'euro non se l'ha preso neanche in considerazione, quindi i tempi cambiano e anche il valore di queste cose cambiano, tutto qua, quindi non è che stiamo dicendo una fandonia, anche perché ce la ricordiamo fuori un po' di più. Per me 200 lire era già fin troppo ormai. Allora, l'Italia è diventata famosa anche nel mondo in generale, anche per i mezzi, per esempio. Assolutamente. Oggi non sembrerebbe, ma è così. Per i mezzi di trasporto privati, non quelli pubblici. Anche pubblici, perché poi vedremo il treni. Sì, soprattutto a metà degli anni 60, la bicicletta viene proprio rivoluzionata, dunque cambia l'immagine di mezzi di trasporto della classe operaia, dei proletari che andavano a lavorare in bicicletta. La Carnelli, una delle aziende più famose di biciclette, rivoluziona il concetto di bicicletta, si inventa la bicicletta pieghevole. E ruote piccole, non ha la canna in mezzo, non ha la canna, il telaio è diviso in due tronconi legati da una cerniera. Si sfilano il manubrio, si sfila il sellino in maniera facile, si mette una sorta di portapacchi posteriore, ed è la bicicletta, la chiama Graziella, quindi già dal nome si capisce che il target è quello femminile. La bicicletta Graziella ha un successo strepitoso. Perché è pieghevole, si può portare in giro, esattamente, nel bagagliaio della macchina. E ora se la vediamo adesso è una cosa, perché oltretutto era anche abbastanza pesante, cioè non era così portabile, però diciamo che questo nuovo modo di fare le biciclette poi seguito negli anni dopo da tutte le altre, perché a questo punto la bicicletta pieghevole è diventata un must proprio per... Se adesso è molto più sofisticata, però è vero che ormai il termine Graziella significa bicicletta pieghevole. Sì, perché poi è identificato con un nuovo simbolo di anticonformismo, no? E sulla scia nacquero appunto altre biciclette pieghevoli. Questo per quanto riguarda le femmine. Sì. Per quanto riguarda i maschi, cosa avevamo noi? La saltafoss. Eh beh, certo. La bici da cross che i bambini, saltafoss, che si chiamava saltafoss. A 12-13 anni tutti avevano voglia e il sogno era quello di salire su una moto da regolarità, il KTM, l'SVM. Ma non potendolo avere. Ma non potendolo avere, esatto, non vedevi l'ora. A un certo punto ti arriva questa saltafoss. E per noi bambini era veramente, cioè, il top. Dici, ok, adesso mi do al cross. Con la cartolina fra i raggi o senza? Anche con la cartolina fra i raggi. Una bicicletta bellissima, costosissima, va detto, perché costava, con gli ammortizzatori. Quelli davanti erano falsi, quelli dietro funzionavano. Bene, okay. E la sella lunga, dove potevi portare una persona. Sì. E, insomma, e anche questo è stata una bicicletta rivoluzionaria. L'unico difetto è che pesava una cosa impossibile, aveva una corona piccolina, quindi facevi una fatica, tant'è però la saltafoss fu un grande successo. Sì. La rivoluzione vera dei mezzi di trasporto italiana l'aveva fatta la Piaggio, non con la Vespa, che parliamo di anni dietro, col Ciao. Il Ciao è stato concepito come una sorta di elettrodomestico a due ruote. Figuratevi che nel 68, a maggio 68, quando è stato presentato, costava 55.000 lire. Un serbatoio di 3 litri di miscela al 2%. Ed era praticamente una sorta di bicicletta leggerissimo, 50-49 di cilindrata, vero ciclomotore, e anche questo è stato una cosa, il simbolo della libertà, si andava senza casco, si andava piano, le strade erano più c'erano, sicure. Devo dire che ormai tutte le questioni di sicurezza, anche le leggi sulla sicurezza, poi hanno imposto anche molti cambiamenti da questo punto di vista. Sì, tante lì cose avevano i freni hanno a tamburo, potuto, esatto, nascere perché non c'erano tutte quelle limitazioni. Non c'erano dei vincoli, certo. La stessa Graziella, il sistema di chiusura è assolutamente insicuro oggi come oggi, infatti le bicicletta pieghevoli ne hanno un altro, no? Anche se si piegano anche quelle in mezzo, però c'è un sistema di sicurezza, quelle se la leva non era chiusa abbastanza bene, succede. Si piegava, per cui strada facendo. Esatto, in effetti. Allora, abbiamo detto biciclette per lei e per lui, abbiamo detto la moto, ci sono anche i treni, che c'è un momento in cui c'è un grande successo per quanto riguarda l'Italia. Luigi Cantamessa, ciao, buona domenica. Buongiorno, buona domenica Stefano e a tutti i tuoi ascoltatori. Luigi Cantamessa è responsabile per le Ferrovie dello Stato, per i treni storici in Italia. Si è aperta anche una fondazione, nata da pochissimo tempo, una fondazione perché di questo si possa parlare e i treni possano essere visti. Luigi, io volevo cominciare, poi tu ne sai molto più di me, dal Sette Bello, però, che è stata una rivoluzione, anche se credo sia durata poco. Bello è stata una rivoluzione, lo stacco verso la modernità nel trasporto ferroviario viaggiatori, ma soprattutto il Sette Bello ha costituito un punto di sintesi tra l'eccellenza tecnica delle nostre ferrovie, il design e il comfort. Ancora oggi, vedendo il muso prominente, tondeggiante, con queste bellissime forme tonde e rastremate degli anni 50, viene in mente un missile, un proiettile. Sì. Cioè, gli ingegneri della Breda studiarono qualcosa di più che corresse, ma qualcosa che fosse bello da vedere e sul quale si viaggiasse con grande comfort. Ecco, quali sono i treni che in Italia hanno avuto grande successo, ma che sono stati amati anche all'estero? La Littorina, decisamente. La Littorina è una invenzione tutta italiana, sì, completamente italiana, che portò e fu il vanto dell'ingegneria ferroviaria nazionale, sviluppata negli anni 30 sotto l'eufemistica propaganda di quel regime d'allora. Fu però un'intuizione questa intelligentissima, praticamente un autobus su rotaia, molto economico, molto versatile, che fu poi copiato da tutte le amministrazioni ferroviarie europee. Fino in Sud America, in Argentina, vollero provare qual era l'esperimento della Fiat ferroviaria di calare un motore termico di tipo camionistico su un carrello ferroviario. Senti, e oggi invece? Oggi le Ferrovie dello Stato possono vantare una competenza e una ricerca non interrotta. Negli anni a Firenze il nostro ufficio studi del servizio materiale e trazione provava, testava e faceva costruire i treni. dall'ETR 200 che nel 39 conquistò il primato mondiale di velocità. Pochi italiani lo sanno, ma è il caso di ricordarlo. Sì. Tra Pontenure e Piacenza raggiunse i 203 km orari, fino al Sette Bello, la Littorina e oggi Frecciarossa. Tra poco l'ETR 1000, il treno più veloce che potrà correre tra Roma e Milano, abbattendo probabilmente i tempi di percorrenza addirittura sotto le due ore. Ecco, senti Luigi, so che gli sforzi tuoi, che proprio è un amore personale con Luigi, sta facendo molto per l'Italia, in realtà quello di recuperare i treni storici è un grandissimo costo e una grandissima fatica, però a quanto pare insomma, i tuoi sforzi da tanti anni continuano ma stanno portando a molto. Dov'è che li possiamo vedere in questo momento in Italia? In questo momento c'è un cambiamento di rotta, probabilmente i nostri decisori, soprattutto gli enti e le istituzioni, stanno capendo che queste ferrovie minori che corrono in paesaggi talvolta bellissimi, lontano dalle grandi conurbazioni urbane, con il treno che ricama il paesaggio più che attraversarlo, stanno capendo che questa è una risorsa, anche in un momento di sfavorevole congiuntura economica, per il nostro paese, per le zone non urbanizzate. Cos'è cambiato? Le ferrovie dello Stato il 6 marzo hanno fondato la Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, che avrà il compito di tramandare intatto alle generazioni del futuro il modo di viaggiare degli italiani e il patrimonio immenso costituito da treni, archivi, biblioteche. Sostanzialmente si vede l'evoluzione del popolo italiano dal 1905 ad oggi. Ecco, anche perché appunto i treni lo rappresentano da tanti punti di vista e vi consiglio di andare a vedere il Centoporte, non so se tu te lo ricordi, ecco Luca. Sì, come no, io ci viaggiavo perché quando andavo al mare c'era in Ligure, c'era da Genova, si cambiava, no? C'era questa Littorina una porta per ogni scompartimento e la gente ti entrava in uno scompartimento ogni fermata, con i sedili in legno, un legno bellissimo. Fammi congedare Luigi, grazie Luigi, poi ci sentiamo, verremo a vedere i treni che state recuperando e sono tanti anche molto belli, buona domenica. Grazie. Ciao Luigi, ciao. Avremmo dovuto parlare anche della Lima ma lo faremo più tardi. Vi ricordo il numero per giocare: 800 24 00 24 intorno alle 11:40 per Modigliani 24 minuti per voi, il catalogo della mostra e i biglietti d'ingresso per la mostra Palazzo Reale a Milano, e continuiamo a parlare di oggetti che hanno fatto la nostra storia e che ancora oggi rappresentano noi italiani. Il riposo del guerriero. Lo specchietto nel retrovisore oggi per quanto riguarda il riposo del guerriero, per rivedere nel passato le cose che poi abbiamo trovato, troviamo anche oggi, che ci hanno caratterizzato, ci hanno lasciato davvero un segno. Qualcuno si ricorda appunto le saltafosse anche con nomi diversi. E volevo citare un messaggio, dicevo: vi seguo mentre sto correndo a 5,5 km. Allora ho imparato a leggere e scrivere a 4 anni grazie ad Alberto Manzi. La mia prima bici era una Graziella. Ma però perché il fratello di Petruccio ha un cognome diverso? Paolo, Luca, scusami, alla risposta. E allora lui si firmava Cesar Monti, era un nome d'arte perché si chiamava appunto Cesare Montalbetti. Ecco, abbiamo parlato di treni, ma velocemente un minuto volevo dedicare a Mauro Terrone. Ciao Mauro, buona domenica. Ciao Stefano e buongiorno a tutti. Ciao. Per raccontarci, abbiamo pochissimo tempo ma facciamolo, perché con i treni mi è venuto in mente che una parte del nostro cuore erano i trenini Lima, forse i primi modellini di trenini elettrici a buon mercato tra virgolette, no? Sì, infatti, però se mi permette una premessa veloce, come no? Vai. Diciamo, la Lima in pratica nasce facendo tutt'altro, perché in pratica Lima non è altro che l'acronimo di Lavorazioni Italiane Metalli e Affini. All'inizio era un'industria che lavorava l'alluminio e faceva riparazioni per le ferrovie dello Stato. È nata praticamente nell'immediato dopoguerra, quindi riparava le carrozze che avevano subito danni di guerra. Loro vedevano le carrozze, sapevano esattamente come erano fatte, quindi fare il modellino poi risultava quasi più facile, no? No, perché poi c'è stato, diciamo, questo fino al 1953, quando sì, l'azienda è stata rilevata da Ottorino Bisazza, che si può definire un visionario perché ha guardato molto avanti, visto che fino a quel momento esisteva soltanto il treno da collezionismo. Lui ebbe la geniale idea di dire: ma perché non fare un prodotto che sia alla portata di tutti, cioè alla portata soprattutto dei bambini, e inventò il treno giocattolo che inizialmente era fatto sempre di alluminio, poi passò alla plastica e divenne alla portata di tutti, ecco. Ed è stato per noi che all'età eravamo, che all'epoca eravamo bambini, è stato il massimo. Sì, perché era un collezionismo davvero alla portata di tutti dal punto di vista del costo, no? Perché i trenini Lima costavano meno degli altri, però veramente erano il nome per parlare di questo. Cioè, quando si parlava di trenini elettrici si diceva Lima e basta. Per cui... Sì, ma non solo, era anche un gioco creativo. Cioè, diciamo, insieme al Meccano ed altri, sono stati i primi giochi creativi dove veramente a noi bambini ci faceva anche un po' sviluppare il cervello, muovere la testa, nel senso che non solo, cioè per vedere correre il treno avanti e indietro, dovevamo montarci il nostro vale, sì, dovevamo attaccarci il trasformatore, dovevamo diciamo un misto tra gioco e creatività. Senti, per chiudere, Mauro, vorremmo ricordare, tu hai un sito dedicato proprio alla storia della Lima, che non mi ricordo in questo momento. Sì, lima-tribute.it. Ecco, Lima. Vabbè, diciamo, io sono soltanto il raccoglitore. Cioè, delle informazioni, ecco, così potete, sì, anche vedere tutto quello che riguarda la storica azienda con tanto di foto. Hai ancora un plastico montato o tutto nelle scatole, Mauro? Allora, io oltre ad avere i trenini sia giocattoli che da collezionista, diciamo, faccio parte di un gruppo di fermodellisti dove stiamo costruendo un plastico. In più ci stiamo anche ci siamo anche organizzati in modo da diffondere la passione del trenino, del modellismo, che è andata un po' persa. Ecco, cerchiamo di recuperarla. Allora, ti saluto, grazie Mauro, buona domenica. Niente, grazie. Ciao, a te, grazie. Ciao. Luca, una delle cose che ha caratterizzato i nostri pensieri, ma anche il modo di essere, la libertà, è stato l'ombelico di Raffaella Carrà. Mamma mia, è vero, l'hai detto, nel 1971 la sigla di Canzonissima, la prima edizione in cui partecipa Raffaella Carrà, è stata una cosa tremenda, perché subito non era famosa nel 1971 e i maligni dicevano: ma insomma l'han presa perché costa poco, il cachet è basso rispetto a Mina, sì, rispetto alle altre conduttrici. Lei, da buona romagnola, tira fuori le unghie e anche l'ombelico, perché nella sigla iniziale balla insieme a un ballerino che poi è Enzo Paolo Turchi questa canzone Tuca Tuca, scritta da Gianni Buoncompagni, dove nel balletto, a parte appunto lei si presenta in questa tutina aderente con la pancia nuda, nel balletto inizia, di fronte al ballerino uomo si toccano i fianchi, le spalle, le gambe, si dice Tuca Tuca e si toccano e mi piace. Apriti cielo, alla terza puntata l'hanno soppressa perché la Rai viene bombardata da telefonate indignate della Rai Bacchettone all'epoca. A risolvere tutto è stato Alberto Sordi, che, invitato a Canzonissima, ha detto: io vengo se mi fate ballare il Tuca Tuca con Raffaella Carrà. Detto fatto, e da lì il Tuca Tuca è stato sdoganato. E tra l'altro, in questo senso, la TV era molto più creativa. Molto, perché si provavano più cose che oggi invece assolutamente sono forse d'accordo, solo volgari e molto meno creative. Certo. Ma proprio per questo motivo abbiamo Raffaella Carrà. Buona domenica. Buona domenica a voi Stefano, a lei e chi ci ascolta. Allora, intanto io comincerei, visto che oggi parliamo del passato, io comincerei invece dal presente, partendo da The Voice, il programma da pochissimo partito su Rai 2 con un format rivoluzionario, perché si dà ascolto alla voce e non si vedono le persone, almeno fino a quando non vi voltate, funziona così. Per adesso, per forza di cose, a un certo punto ne dovrete vedere per forza perché voi siete i coach. Dobbiamo allenarli, quindi dobbiamo conoscerli da vicino, sì. Allora, vorrei capire, una trasmissione come The Voice poteva essere pensata negli anni 60, negli anni 70, oppure sarebbe stato impossibile? Questo non lo so, però le voglio dire che negli anni 60 e negli anni 70, i miei anni sono quelli 70, i 60 io non facevo ancora televisione, e negli anni 70 per esempio c'erano dei talenti pazzeschi, sia a livello di autori, sia a livello di protagonisti televisivi, con, come posso dire, con dei nomi folgoranti, e quindi c'era una maggiore attenzione, pur avendo un canale o due massimo, c'era una maggiore attenzione alla qualità. Per cui si facevano programmi probabilmente meno di oggi, ma con una cura, con un dettaglio, con una proprio scolarizzazione. Chi entrava in questo programma, perché era magari la showgirl, termine usatissimo oggi, ormai è diventato proprio... Se ne abusa. Lo si usa per tutte, voglio sì, dire, certo. Non è così. Che pretendeva dalla persona un impegno pazzesco, e questa era una scuola che oggi non esiste più. Ecco, c'è qualche cosa che in televisione secondo lei non è ancora stato fatto e vorrebbe venisse visto, o invece non è così, ormai si è visto veramente tutto? Beh, credo che molto molto molto si sia già visto, però l'importante secondo me è praticamente rivoluzionare magari un'ispirazione o ispirarsi a un qualcosa di già visto, per poi renderlo personale al massimo e con un ritmo. Ecco, il ritmo della televisione di oggi è molto più veloce di quello di tanti anni fa. Ecco, ma questo è un bene e un male. Il show non c'è più, per cui io credo che è più difficile inventare oggi qualcosa che piaccia alla gente, soprattutto ai ragazzi, perché lei sa che i ragazzi stanno su internet e non guardano la televisione, quindi poterli attirare con un programma devi avere veramente un ritmo che li assomigli molto. E credo che alle persone adulte invece piaccia molto essere al tempo delle cose, cioè hanno successo i programmi di Amarcord, senz'altro, no? I vari da da da e cose varie, però la televisione di oggi è un'altra cosa. Ecco perché io ho scelto di tornare dopo 4 anni con un linguaggio televisivo modernissimo, ma nei miei anni c'era veramente gente pazzesca che ti insegnava di tutto e di più, prove allucinanti, lunghissime. Oggi si usa che praticamente l'ospite viene e dopo 2 ore va in onda, non si può fare così, io non sono capace, per cui credo che fare uno show o hai lo stesso tempo, tempo anche di scelta delle persone, e quindi lo fai, altrimenti è meglio come dire, viaggiare per mondi nuovi. Ecco, tra l'altro per certi aspetti, proprio anche per questi, io considero la televisione attuale più rigida di quella del passato, anche se aveva regole ferree, perché eravate veramente preparatissimi sempre e comunque provavate anche tanto, però eravate più creativi, era una TV più creativa in generale, concorda con me con questo? Sì, certamente era più creativa perché c'erano più talenti, come l'ho detto prima, sì. C'erano persone di altissimo livello. Verde, come posso dire, Marchesi, autori straordinari, capito? Sì, poi oggi tanti arrivavano anche per l'abbassamento dei budget e tutto, magari fa 3 programmi, allora con 3 programmi allo stesso momento anche un autore non può concentrarsi fino in fondo, capito? Certo, devi avere il tempo proprio full time per occuparti di una cosa. Io credo che si arrivava anche dalla scuola del teatro e del cinema, e quindi c'era anche una scuola diversa alle spalle. E questo, sia per quanto riguarda gli autori, sia per quanto riguarda chi invece in video ci va, fa cambiare le cose. Sì, ma la velocità non è tanto amica del come posso dire, del fatto bene, della qualità, perché certo. Quando tu fai le cose veloci, giustamente non approfondisci, e lì è il problema. Ecco, quindi questo è già il cambiamento che ci dovrebbe essere, tornare un po' all'approfondimento, ecco, forse ma questo dipende, manca. Probabilmente lo si può fare con un programma o due l'anno, ma la vita è talmente rapida che non ci si può più permettere di rimanere ai ritmi di una volta, per carità, io li ricordo con grande piacere, mi hanno dato un'esperienza pazzesca, però oggi devi trovare un altro modo per allenare i giovani e fare una televisione di maggior livello, capito? Non è quella la strada, perché non c'è più nessuno praticamente che ti aiuta. Ecco, proprio parlando, la saluto con questa domanda, alla fine di vita attuale, di come sono le cose oggi, insomma, lei è molto amata in Spagna Spagna e Italia in questo momento stanno vivendo un momento difficile, ovviamente non soltanto la Spagna e l'Italia. Secondo lei il modo di affrontare da parte degli spagnoli rispetto agli italiani le cose, la quotidianità, è diverso? E se sì, cos'è che dovremmo imparare? Guarda, Guardi, io sono a Madrid da qualche giorno, sì. E ovviamente guardo molto telegiornali, anche quando sono in Italia lo faccio, ma in questo momento sono molto impegnata, per cui mi occupo più di musica. Non hanno un modo diverso di affrontare i problemi, praticamente dicono le stesse cose più o meno. Quello che manca comunque nei due paesi, soprattutto in Italia, è cercare di parlarsi. Sembra una babele incredibile, non ci si fida più di nessuno. È giusto anche da una parte non fidarsi tanto, perché fino adesso ci sono stati solo che grandi casini. Dal punto di vista politico abbiamo visto delle cose che non si immaginavano neppure, cioè non ti puoi comprare la Nutella con i soldi dei contribuenti, cioè una cosa veramente proprio tremenda. È un'altra, è un altro tipo di vita che noi cerchiamo, una vita, paghiamo, chi guadagna di più paga di più, benissimo, siamo arrivati a dei livelli altissimi, ok, però tutti. E invece devo dire la verità che ci sono, cioè ho sentito in televisione, probabilmente sarà da verificare, ma anche grandissimi gioiellieri che evadono le tasse. Io sono in Spagna e pago le tasse, in Italia e in Spagna, anche per quei pochi denari che uno guadagna facendo magari un'apparizione in televisione. Grazie ancora e la vediamo su The Voice. Grazie ancora, buona domenica. Grazie, cantiamo per ora, arrivederci. Volentieri. Il riposo del guerriero. Poi ci sono le figurine panini delle quali avremmo voluto parlare, ma non c'è il tempo per farlo, ma grazie per le segnalazioni e grazie anche alla disponibilità di Panini, che dovevano essere nostri ospiti, ma non lo saranno. È una puntata dedicata agli oggetti da collezionare che ancora possiamo avere da qualche parte. E Luca Pollini ha conservato, non so se un oggetto, un personaggio, qualche cosa, non mi ha voluto dire che cosa, che cos'è. No, che è un oggetto, che oltretutto tu hai citato. Ah. La musicassetta. Alla musicassetta. La musicassetta, certo, è stata un'invenzione clamorosa. Ma perché? Perché ha consentito alla musica di essere portata in giro. Sì. Cioè alla musica che preferisci tu, che preferivi tu, no? Cioè sono andate l'autoradio, poi sono andate l'autoradio con il mangianastri. E poi è nato il Walkman, cioè che nonno dell'iPod, diciamo. E grazie alla musicassetta uno si faceva la sua cassettina, musicassetta vergine, ovviamente, sì. la C60, C90, C120 mai. Il numero rappresentava il minuto, esatto, e che dovevi sempre avere a portata di mano una matita, una penna per rivolgere una il nastro. Rigorosamente, perché è l'unica che poteva servire, esatto, a quello scopo. Ecco, la 120 minuti non si usava molto perché era troppo pesante e rischiava di essere mangiata, che rovinasse le testine. Poi c'erano quelle al cromo, tutte le, sì, al ferro, eccetera, eccetera. Però al di là di quello, secondo me la musicassetta, adesso tornando a noi, è proprio stato l'oggetto che ha fatto anche lì fare un passo avanti un po' a tutto, cioè nel senso, soprattutto a noi appassionati di musica, un po' come dicevi tu, serviva per conservare gelosamente il 33 giri in vinile e girarlo poi ai posteri, sì. Un po' anche per essere portato in giro, quindi uno girava, faceva i suoi viaggi con la musica, con le musicassette o cassette. E quindi la musica comincia a far parte della nostra quotidianità come ancora oggi. Assolutamente, cioè, sì, sì. Poi un po' diciamo che fino all'avvento delle radio, di musica ce ne girava assai poca in radio, diciamo, nelle radio della Rai c'era, per noi, soprattutto la musica era quella dalle 9 di sera in poi. Televisione neanche parlarne, fino all'avvento anche lì delle televisioni libere, poi commerciali, insomma, sì, come si chiamavano. E quindi la nostra fortuna era queste musicassette che noi portavamo in giro, portavamo al mare, portavamo in spiaggia con il registratore portatile o nella macchina del papà o nel Walkman, poi più avanti. E secondo me la musicassetta è stata sì, un oggetto che non è morto, per adesso si chiama MP3 file, però il concetto è il concetto stesso, uguale, morta lei, ma il concetto no. Esatto, quindi ancora ce lo portiamo dietro anche nel cuore, ovviamente. Allora, sono tantissimi prodotti, l'oro saiva, l'Egolia, perché l'Egolia è una storia straordinaria. Tutte queste storie le trovate su retrovisore.net, che è il blog che tu segui, sì. E a questo punto, Luca, ci sentiremo una un'altra puntata. Ma volentieri. Ecco, poi chiacchiereremo perché hai tante cose da raccontare. Tra l'altro, Luca ha scritto molti libri anche molto diversi fra loro, sì, con argomenti proprio sì, diversi, sì, ecco, sempre nella memoria, generi, però. Se sì, e che così, se volete vedere la bibliografia completa, andate sul sito e lo vedrete. Grazie ancora di essere stato nostro ospite, perché a questo punto c'è il momento della nostra glottologa, che è Francesca Dragotto. Reason cold in ancient years old. Senti chi parla. E oggi facciamo parlare i vecchi Carosello, ma non soltanto, soprattutto Francesca Dragotto. Ciao, buona domenica. Buongiorno, buona domenica. Forse sentirete parlare anche Diego, che mi sta girando intorno dicendo mamma, mamma. Va bene, lui rappresenta il nuovo, giustamente, in questo lungo racconto che parte dagli anni 60 fino ai giorni nostri. Allora, parliamo di retro o retro? Oh sì, iniziamo con una piccola retrospettiva linguistica, sì, sul retro e i suoi significati, perché retro e retro sono cugine di uno stesso termine latino. Si tratta di un avverbio retro, lo stesso avverbio che è stato reso intramontabile dall'imperitura locuzione vade retro satana. L'avverbio si trova sostanzialmente impiegato in tutta la storia della nostra lingua, con il significato di dietro, alle spalle, di una persona, di una cosa, di un luogo, che vengono presi appunto di riferimento, e si trova sostantivato per indicare ad esempio la parte posteriore non solo di un edificio ma anche di una persona. Sta quindi per sedere, e come sedere costituisce una forma eufemistica alternativa posteriore, a sua volta forma eufemistica, per indicare il deretano, tutte parole connesse appunto con il dietro. Ritroviamo retro in numerosi composti, tra cui mi viene in mente retrogrado, letteralmente che cammina all'indietro rispetto all'osservatore, ma se ci pensiamo anche che guarda al passato, che torna indietro, ed è il senso che interessa a noi. Lo stesso senso che oggi va di moda però esprimere con retro, che abbiamo ripreso dal francese intorno al 1980, in cui non viaggiava da solo ma costituiva la prima parte di parole come retrospective o retrograde, equivalenti di retrospettivo e retrogrado. Ora, questo per dire che il termine in sé non era necessario, in quanto sostanzialmente doppione del nostro. Ce l'avevamo già, solo che retro è più chic, diciamo così. Sì, ecco. Esattamente, fa più chic, e per questa ragione lo abbiamo ripreso, non assolutamente per necessità. Abbiamo una certa inclinazione al forestierismo, all'esotismo, e quindi lo utilizziamo scritto con l'accento. Ecco, alcuni chiedono se l'accento vada sulla E o sulla O. Se si trova in entrambe le forme, perché la forma retro con E con accento acuto è chiaramente quella che si rifà alla grafia del francese. La seconda parte, italianizzata, invece è senza la E accentata ma con la O con accento grave. Sì, per far capire che si legge retro, insomma, perché non sa il francese. Certo. Esattamente, quanto sia integrato, perché nel momento in cui adattiamo anche la scrittura, la nostra scrittura, le nostre regole ortografiche, la pronuncia del termine straniero, ci rendiamo conto di quanto si tratti di una nozione, di un termine consolidato nel nostro sistema. Ecco, un po' meno chic invece era Tino Scotti, il protagonista dei caroselli del confetto Falqui, perché a un certo punto in uno dei caroselli la sua cameriera così pronuncia questa frase. Professore, c'è un negro che le vuol parlare. Un negro? Proprio oggi che vado in bianco. Va bene, fallo passare. Ecco, la battuta era un negro proprio oggi che vado in bianco, ma oggi non potrebbe mai sentirsi la parola negro in televisione, credo. Esattamente, né la sua forma alternativa a negro, latinismo, che però per noi è il latinismo di ritorno, questa volta attraverso l'inglese d'America, l'inglese dei film, non si potrebbe più, non lo riterremo più accettabile, perché si tratta di uno di quegli ambiti in cui il gusto del politicamente corretto ha modificato le nostre forme espressive. E non si tratta del solo caso, perché in un altro carosello che magari per questioni di tempo non sentiamo, quello della dolce Uchessina, troviamo ad esempio il riferimento non agli anziani ma ai vecchi, un altro termine che oggi sarebbe inaccettabile per parlare di chi è âgé, appunto io stessa in questo momento ho detto âgé, quindi per chi è di età avanzata. Il dato interessante, proprio perché stiamo parlando di parole dal sapore retro, è proprio questo: il politicamente corretto ha portato a modificare alcuni campi espressivi, ma non altri. Tant'è che andando a vedere le pubblicità che oggi parlano di funzioni digestive, con l'eccezione forse del carbone contro il meteorismo e la flatulenza, termini scientifici che infatti poi nello spot vengono spiegati con che fastidio quell'aria nello stomaco, continuano a trovare una forte interdizione. Insomma, oggi come ieri si continua a parlare di puntualità, sono puntuale come un orologio, locuzione, espressione che di per sé in assenza del contesto è incomprensibile. Se non avessi di fronte o qualcuno che parla con me, o non avessi di fronte un qualcosa che mi fa capire a cosa mi sto riferendo, non riuscirei neanche a capire qual è il significato specifico di essere puntuale come un orologio. Ecco, io francamente preferisco questo piuttosto che proprio parlare della cosa in sé, perché magari mentre sto mangiando non è proprio la cosa più simpatica da ascoltare in televisione. Ma il nuovo snobismo porta all'impiego dei termini della medicina ogni volta, della medicina e di tutti i linguaggi tecnici ogni volta che è possibile. È la nuova tendenza, ormai parliamo di una tendenza che annovera già più di 10 anni di pubblicità, però ecco, la nuova tendenza in pubblicità non è più tanto alla ripresa dei termini stranieri, che per carità vengono tuttora ripresi, ma alla ripresa di termini scientifici che servono a ratificare la validità di quanto si sta proponendo. Che sia politicamente corretto o meno, resta un dato di fatto il condizionamento che a livello non consapevole subiamo da parte delle parole che sentiamo e che a nostra volta usiamo, e su questo sarebbe bene riflettere. Il riposo del guerriero. Giochi e videogiochi. Partiamo con i giochi oggi col nostro ludologo, che è Andrea Legabue. Ciao Andrea, buona domenica. Ciao Stefano, buona domenica e buona domenica a tutti. Allora, vediamo i giochi che un po' hanno segnato tutti gli altri. Partiamo dal 1974, quindi sì. Cosa sono? 40 anni fa? Sì, quasi 40 anni fa. L'anno prossimo è il 40° anniversario. Nel 1974 Gary Gygax, che tra l'altro è stato anche nostro ospite a Modena un anno, con la ditta che si chiama TSR, metteva in mercato Dungeons & Dragons, il primo vero gioco di ruolo, diciamo, a diffusione di massa. Un gioco che fece un grande scalpore e che introdusse, diciamo, nel mondo del gioco il concetto del gioco di ruolo. I giochi di ruolo non sono, come molti pensano, tutti quei giochi strani a tema fantasy che si vedono in giro, ma sono uno specifico tipo di gioco molto particolare in cui c'è un master, un direttore, che racconta una storia, inventa un'avventura, e questa avventura i giocatori la vivono in prima persona compiendo delle scelte. Dungeons & Dragons ha veramente segnato la storia del mondo del gioco, e a lui si sono ispirati tanti giochi successivi, sia in campo dei giochi da tavolo che nel settore videoludico. Un'altra data importante nel mondo del gioco è il 1983, di cui quest'anno occorre il 30° anniversario, e fu l'anno in cui venne pubblicata la prima edizione del Warhammer Fantasy Battle, un gioco di miniature che univa quindi la passione del modellismo a quella del gioco. Ogni giocatore ha un suo esercito fatto da miniature colorate, e questi eserciti si combattono su un tabellone di gioco in una maniera, diciamo, conseguendo delle regole dei manuali. Altra data importantissima, diciamo, nel mondo del gioco da tavolo, 10 anni dopo, è quella del 1993, l'anno in cui viene pubblicato da parte della Wizard of the Coast il gioco di Richard Garfield, Magic the Gathering, che ha davvero cambiato la diffusione, l'impatto dei giochi di un certo tipo a livello sociale. Magic è diventato un vero fenomeno sociale, ha introdotto il concetto del gioco di carte collezionabili, quindi un gioco in cui il giocatore non possiede subito tutto il gioco, ma stile, come succede con le figurine della Panini dei calciatori, man mano compra delle bustine aggiuntive in cui può trovare delle carte. Ci sono carte rare, carte molto rare, carte comuni. Ecco che poi si possono scambiare, lo sanno bene i genitori che hanno a che fare con figli che giocano a Magic e esatto, che devono anche impararsi le regole, che io sarò onesto, non ho ancora bene imparato, ho imparato un po' a metà, sono sincero, no. Vabbè, comunque sia, c'è sempre tempo per imparare. Mi vengono in mente anche libri game che ebbero successo proprio intorno ai primi anni 70 anche in Italia. Ricordo Lupo Solitario, è stata forse la prima serie, erano dei libri che raccontavano delle avventure dove a un certo punto il lettore doveva fare una scelta e in base alla scelta avrebbe dovuto leggere una pagina piuttosto che un'altra pagina, e quindi la storia cambiava e anche il finale della storia poteva cambiare, con il protagonista che addirittura poteva non esserci più, morire oppure andare avanti e risolvere, diciamo così, l'avventura. Un po' me lo ricordano, no? I giochi di ruolo in qualche modo hanno a che fare con il grande successo dei libri game, che non ci sono più ma che io posseggo ancora e che sono disposto a cedere per molti moltissimi euro. Scherzando, no, ti viene in mente che proprio Dungeons and Dragons, sì, una diciamo delle cose da cui si è ispirato era Tunnel and Trolls, che ha il nome e chiaramente richiama, che era proprio una serie di libri games che erano usciti qualche anno prima dell'uscita di Dungeons and Dragons. Quindi, diciamo, come dici tu, l'influenza dei libri games sul gioco di ruolo e sul gioco in generale è fortissimo. Ecco, l'ultimo abbiamo scoperto, esatto, che ogni 10 anni più o meno avviene qualcosa nel mondo del gioco, sì. Finiamo col 1995. Nel 1995 viene pubblicato Coloni di Catan, che vince lo Spiel des Jahres, il gioco dell'anno. Coloni di Catan è un gioco che ha avuto una diffusione spaventosa, ne sono state vendute milioni di copie in tutto il mondo, ed è il gioco che ha aperto la strada a quelli che vengono chiamati da noi giochi alla tedesca, o diciamo in Europa, in America chiamano gli Eurogames, cioè sono dei giochi semplici come regole, ma con una, diciamo, aspetti strategici profondi ed interessanti che possono essere giocati tranquillamente con la famiglia in un tempo, un'oretta, un'oretta e mezzo. Coloni di Catan, in specifico ve lo voglio raccontare perché è molto molto bello, è un gioco in cui ogni giocatore si sviluppa la sua civiltà in questa mappa formata da esagoni che vengono quindi composti ogni volta in maniera diversa. Il giocatore costruisce delle colonie che sono delle casette, delle strade che vengono messe lungo i lati degli esagoni e delle città. La cosa peculiare di questo gioco è che ogni turno i giocatori ricevono delle risorse sotto forma di carte, ci sono grano, argilla, legno, pietra e pecore, e possono commerciare con gli altri giocatori le risorse. Cioè c'è una fase in cui ad esempio io dico: oh, mi serve della roccia, chi ha della roccia io te la do in cambio di due legni. C'è proprio una fase di mercantaggio in cui i giocatori si scambiano le carte e con le carte risorsa poi possono costruire appunto case, strade o città. Ecco, infatti, e poi diciamo che sono anche dei giochi un po' simili, no? È stato un po' copiato anche da altri con idee simili, anche se non esattamente queste. Mi fa così sorridere che si chiamano giochi alla tedesca e gli americani li chiamano Eurogames. Pare che l'Europa sia solo Germania, ma non è proprio così, ma questo è un altro discorso. Meglio non impelagare. Assolutamente no. Grazie Andrea Ligabue, ludologo.com, a domenica prossima. Ciao, buon grazie gioco. Stefano, buona domenica a tutti e buon gioco. Il gastronauta Davide Paolini, ciao, buona domenica. Buona domenica a tutti, buona domenica. Cosa stai bevendo? No, adesso forse un po' presto, però. Sono arrivato in questo momento a Verona. Eccolo, non sto là ancora bevendo niente. Quindi, strano. Sono savissimo, come si dice. L'IS di solito si beve anche un po' prima, alle 11.40. Al sì, mattino, no, l'IS bevo lo spritz, sì. Si inizia la mattina alle 10. Un prosecchino e via. Un prosecchino e via. Cosa ci racconti oggi, Davide? Ma ho sentito che si parla di retro e mentre sentivo la trasmissione che ero in macchina, mi è venuto in mente il fiasco del Chianti, perché rappresenta benissimo quegli anni, oppure quella bottiglia che aveva disegnato Gio Ponti del Verdicchio. Sono secondo me due simboli del vino di allora, o anche il Rosatello Ruffino, erano un po' i vini che dominavano allora ed erano vini più comuni, più diffusi, insomma. Certo, i vini locali c'erano sempre, ma questi tre erano quelli che si trovavano sicuramente in giro. E ultimamente ho visto che un'azienda ha riproposto un fiasco stilizzato da un del design, e secondo me è un'altra cosa, cioè mi ha fatto molta tristezza. mentre se vedo ancora il fiasco mi dà molta allegria. Ecco, il fiasco non di plastica, perché qualcuno ci ha provato, no? A fare la base di plastica a posto. Sì, ma è questo qua, questo nuovo che è uscito. Vabbè. Secondo me, no. Sono quelle riproposizioni che non sono riuscite, insomma, bocciato. Va bene, il Moplan, ma quello è un'altra cosa. Ho sentito del Moplan, sì. Riproporre il Moplan oggi si può anche, però insomma non bisogna copiare le forme del passato. Ma le altre cose che mi sono venute in mente mentre appunto sentivo la vostra trasmissione, mi sono venute in mente dei piatti a cominciare dei tortellini panna e prosciutto, che hanno fatto tanta strada allora, che poi per fortuna la panna è stata messa da parte. Oppure mi ricordano ancora le farfalle vodka e salmone, che erano anche quelli che rappresentano quell'epoca. E poi c'è una cosa che io adoro, che è la zuppa inglese, che per fortuna ancora oggi si può mangiare, e devo dire che era uno dei dolci tipici che hanno funzionato negli anni 60-70. Era l'anno della cucina regionale di un volume straordinario delle sorelle Gosetti, appunto sulla cucina regionale, che diciamo raccoglieva un po' l'Italia, anche se in quel periodo l'Artusi era sicuramente di gran moda, quindi le 900 e oltre passa di ricette dell'Artusi dominavano sicuramente il periodo. Ecco, ma la zuppa inglese aveva a che fare con l'Inghilterra o assolutamente niente? Ci sono molte leggende su tutti i prodotti. Sì. No, è bellissima questa storia, perché si pensa, si racconta che fosse nata perché una governante dei due bambini di una famiglia inglese che viveva a Fiesole, lei, per farli stare buoni, che erano un po' tremendi, una sera che mancavano i genitori, ha messo assieme una serie di cose che c'erano in casa, appunto, che ha trovato in casa, e c'erano proprio gli ingredienti per la zuppa inglese. Questa è una storia, una leggenda, però è quella che diciamo che ha ancora più credito. Ecco, no, pensavo che arrivasse dall'Inghilterra, hai capito, zuppa inglese. Come la francesina, sì. Visto che mi hai tirato in ballo queste cose, la francesina a Firenze e dintorno, in Toscana, ma anche in Romagna, si chiama francesina ed è praticamente il lesso rifatto, ma non ha niente a che fare con la Francia, solo che anche qui c'è una leggenda che dice che siccome era un piatto talmente povero ed era praticamente un rifacimento di quello che restava, per darci un po' di tono, siccome la Francia era un po' il paese della grande cucina, hanno messo nome francesina. Ecco, quasi per rivalutare questo piatto. È come noi prima, no? Che retro e retro sarebbe la stessa cosa, ma retro ha questo suono francese, allora sembra una cosa più importante. Sì, allora è molto più chic. Più raffinato e più chic, esatto. Allora ti lascio le sciccherie di Verona, che è una straordinaria città, è un bellissimo posto dove stare e indubbiamente dove anche dove si mangia bene. Sì, si mangia bene, non si spende si molto meglio. E si beve anche meglio. Sono molto d'accordo con te. Grazie Davide Paolini, ciao. Ciao. Modigliani in 24 minuti. C'è il titolo di un'opera di Maurice Utrillo presente alla mostra che dovete indovinare grazie all'ascolto di una canzone che tra poco vi farò sentire e che ha a che fare con il titolo in particolare di questa canzone. Rifiuti e povertà. Qui non è mai la noia qui non ha pietà, sporchi stracci senza sorte, morte dove sei, tanto non lascerai, sei figlio della strada ormai. Francesca da Milano, ciao, buona domenica, Francesca. Ciao a tutti, buona domenica. Allora, dovresti dirmi il titolo di questo quadro, che credo che ormai sia facile, perché l'ho detto all'inizio, in poche parole, per cui della puntata di oggi, quindi dovresti riuscire a dirmi. Speriamo. Dai, visto che la settimana scorsa non ce l'avete fatta, almeno questa settimana sì. Com'è il titolo? Chiesa di periferia. Ma facile però, colpa mia. Colpa mia. Per te il catalogo della mostra e biglietti d'ingresso. Grazie, buona domenica. Ciao Francesca. Grazie anche a voi. Ciao. Luciano da Padova. Ciao Luciano, buongiorno. È caduto Luciano. Riccardo da Venezia, pronto. Ciao. Ciao, ciao Riccardo, la sapevi anche tu, però ti hanno fregato. Sì. Volevi dire questo. Credo che la sapevamo in tanti. Lo sapevo, però ha fatto male Luciano a mettere giù, perché in realtà il prossimo che arriva è ancora più facile, è proprio facilissimo. Quindi. Allora, è il titolo di un'opera di Jeanne Boutern, molto semplice, che ha proprio a che fare con questa canzone. Stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà, e fortuna chi se ne va, cogli la prima mela. Stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà, e fortuna chi se ne va, cogli la prima mela. Devo dire che Jeanne Boutern ha colto sicuramente la mela quando ha conosciuto Modigliani, perché hanno poi vissuto anche insieme. Allora, questa canzone, Riccardo, sì. Che cosa ti fa venire in mente? Cogliere la prima mela, chi è che ti fa venire in mente? Quali persone? Mi fa venire in mente Branduardi. No, vabbè, certo, la canzone la canta Branduardi, ma pensando al cogliere la prima mela, no? Quali personaggi, sì, ti vengono in mente legati a questo gesto? Eva. E precisamente ho detto personaggi, quindi chi sono? Adamo ed Eva. Visto che era facile, Per fortuna. Ma sì, vi aiuto, fuori così. Adamo ed Eva è infatti il titolo dell'opera. Bravo Riccardo, per te catalogo della mostra e anche biglietti d'ingresso. Buona domenica. Grazie, ciao. Ciao, grazie a te. 800 24 00 24, c'è Filippo di Parma. Ciao Filippo. Ciao. Anche per te un quadro da indovinare legato, ti aiuterò, quindi stai sereno, legato a questa canzone. E più ci penso, so aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stavo sempre attento al lupo. Attenti al lupo, attenti al lupo, Filippo. Sì, hai riconosciuto questa canzone? Sì, esatto. Come si intitolava, te lo ricordi? Attenti al lupo di Lucio Dalla. Proprio lei. Allora, Isaac Hanscher era tra gli artisti maledetti ed è presente alla mostra, ma dovresti capire quale quadro. C'è il titolo di una delle opere, appunto, presenti alla mostra, che abbia a che fare con questa canzone. Allora, il soggetto quale potrebbe essere secondo te? Così. Il lupo. Il lupo, ecco, va bene. E allora, i lupi dov'è che te li immagini presenti? Dov'è che potrebbero essere? In una? Radura? In una raduna? In una radura, scusami. Esatto. Non è proprio una radura, in una, ma sto più più grande, una... dov'è che possono essere lì che si radunano? In montagna sicuramente, siamo in montagna, in una... Cosa c'è in una montagna? C'è la montagna e poi sotto la montagna c'è la... Cima. No, sotto la montagna. Sotto la montagna che ci sta? Ecco, c'è sotto la montagna, appunto. Nel senso, la cima della montagna e poi la montagna, se scendi, tra una montagna e l'altra c'è... La valle. Eccola lì. E quindi è, come il titolo del quadro, è... La valle. La valle di che cosa? Dei? Dei lupi. L'abbiamo fatta, Esatto, dopo un po'. La cima in alto e la valle in basso. Sono più o meno così. È la Valle dei Lupi il titolo esatto, per te i biglietti per la mostra e anche ovviamente il bellissimo catalogo. Grazie, grazie. Ciao, grazie Filippo. Te, ciao. Alberto della provincia di Bergamo. Ciao. Ciao Albergo. Sì, Albergo. Alberto, scusami. E la mia sarà la più difficile di tutti. Ma no, che è facile. Ascolta, sì, una canzone famosissima di un personaggio del quale abbiamo parlato anche oggi, fra l'altro. piace la pronuncia di impasse. Alberto, allora, ti ricordi questa canzone? Ma mi sembra che sia Nastro Rosa. Con il Nastro Rosa, sì, esatto. E allora, chi è che ti immagini vestito così? Con il nastro rosa. Una bambina. Una bambina con che cosa? Non con il nastro, ma con il ve? Non con il nastro rosa, la bambina è giusto, ma con il ve? Velo. Il velo rosa? Sì. Ma no, Alberto, ciao, che rabbia, ciao. Mi dispiace, non è il velo rosa. Giochiamo settimana prossima. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Guido Scotti e Benedetta Acri in assistenza, Paolo Corleoni in regia. A voi, grazie per aver seguito Il Riposo del Guerriero. Continuate a stare su Radio 24. Buona settimana da Stefano Gallerini. Ci sentiamo domenica prossima.